La linea dura della politica di Sharon continua a colpire in modo duro gli stessi capi dell'intifada palestinese al fine di distruggerne la rete. È l'obiettivo che aveva imposto fin dalla sua nomina e che ora ha nettamente accelerato i tempi di realizzazione. Ci si chiede quanto abbiano influito gli scandali di corruzione dai quali lo stesso leader israeliano è coinvolto. Lo stesso Sharon poi chiama questo suo piano di disimpegno un piano di pace ed è un po' una definizione che lascia un sorriso amaro, perché in verità corrisponde a una soluzione radicale e unilaterale del problema del conflitto palestinese, che è una questione alquanto complessa e soprattutto è bilaterale. E grazie a questa sua politica in Palestina ora si vive una drammatica svolta. La conflittualità, anche se è assurdo affermarlo, è ancor più esasperata. Per Tel Aviv l'esercito è divenuta l'unica possibilità di pace. Ormai vige una politica di annientamento radicale del nemico da una e dall'altra parte. In tutta questa situazione poi ancora più grave è l'assenso che gli Stati Uniti hanno dato a questa politica di Sharon, che da principio avevano criticato quando lo stesso Yassin fu ucciso, ma che poi con una svolta inaspettata hanno appoggiato e hanno addirittura legittimato, inserendo il piano di disimpegno di Sharon all'interno della mediazione internazionale della RMAP. Ora in Palestina si respira una drammatica tensione, ancora più che nel passato. Sharon si trova nella difficile situazione di dover continuare questa politica, deve continuare a colpire le reti del movimento palestinese e deve colpirlo nel minor tempo possibile. Staremo a vedere cosa succederà. Stefano Minutillo Turtur, reporter associati per Amisnet Radio.